24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. La Grecia fa paura, borse europee giù, Milano la peggiore perde il 3,17%. Moody's avverte, la manovra italiana penalizza gli enti locali. Strauss-Kahn per la prima volta in TV, ma non convince i francesi. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Dopo 4 sedute consecutive in rialzo, giornata pesante ieri per le borse europee che hanno bruciato 137 miliardi di euro. Sui listini del vecchio continente pesa l'incertezza dei paesi europei nel trovare un accordo sui debiti sovrani in quella che si preannuncia una settimana decisiva per la Grecia. Parigi ha chiuso a meno 3%, Francoforte a meno 2,83%, Londra a meno 2,03%. E seduta pesantemente negativa per Piazza Affari, l'indice FTSE MIB ha segnato una perdita del 3,17% e il FTSE All Share un ribasso del 3,11%. Apertura di settimana in netto calo per le borse europee penalizzate dai persistenti timori su un possibile default della Grecia. A preoccupare i listini sono stati ancora i possibili rischi di contagio per paesi come Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia, visto anche l'assenza di novità emerse nel weekend dalla riunione dei ministri delle finanze europei. La piazza peggiore è stata Milano, inflessione di oltre il 3%. Sul FTSE MIB, Finmeccanica ha ceduto l'8,6% circa, dopo aver guadagnato il 26% in 3 sedute sulle ipotesi relative alla vendita di Ansaldo CTS e Ansaldo Breda. In netto ribasso Mediaset meno 5,2% nel giorno in cui il premier Silvio Berlusconi si è recato al Tribunale di Milano per il processo Mills. Giù i titoli industriali come Pirelli meno 4,7% e Fiat Industrial meno 3,7%, mentre hanno tenuto Fonsai più 2,7%, il Banco Popolare più 1,4% e A2A più 0,2%. Nel resto del listino sono precipitate la Lazio meno 22% e la Juventus meno 9,6%. La prima ha risentito della sconfitta in campionato col Genoa, la seconda dei conti pubblicati venerdì che hanno mostrato un rosso d'esercizio di 95,4 milioni di euro. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. I cali delle borse sono stati innescati tra l'altro dalle dichiarazioni di Angela Merkel. Secondo la cancelliera tedesca, la disgregazione dell'euro porterà alla disgregazione dell'Europa. Ma ad influenzare negativamente i listini, soprattutto le incertezze circa la possibilità della Grecia di riuscire a mantenere gli impegni prima di poter incassare la prossima tranche d'aiuti da 8 miliardi previsti in ottobre. Settimana decisiva per il destino di Atene. Il governo Papandreou renderà note tutte le decisioni su come raggiungere gli obiettivi di bilancio 2011 e 2012 una volta concluse le difficili discussioni con i rappresentanti della Commissione e del Fondo Monetario. Il ministro delle Finanze greco Evangelos Venizelos ha parlato in teleconferenza con i rappresentanti della Troica e le nuove misure di austerità prevedono tagli nel settore pubblico, la chiusura degli enti inutili o oltre al varo dell'imposta straordinaria sugli immobili, con l'obiettivo di raggiungere 2,5 miliardi di euro supplementare per ripianare il deficit. La Troica teme però che l'imposta straordinaria sulla casa fallisca l'obiettivo a causa delle forti proteste sociali e chiede nuove misure supplementari, altrimenti non concederà la sesta tranche del prestito da 8 miliardi di euro. Il braccio di ferro tra Unione Monetaria e la Grecia continua. Vittorio D'Arò, Radio 24, il Sole 24 Ore. E adesso veniamo alle presunte rozze considerazioni che il presidente del Consiglio italiano avrebbe fatto su Angela Merkel. Secondo Udo Gumpel, corrispondente dall'Italia per varie testate televisive tedesche, se davvero Berlusconi si è espresso volgarmente nei confronti della cancelliera tedesca, lo sa solo chi ha sentito e letto le intercettazioni, sottolinea, tant'è che non vi sono reazioni ufficiali da Berlino. Tuttavia il giudizio di Udo Gumpel su quanto emerge dalle intercettazioni è durissimo. Lo sentiamo al microfono di Laura Bettini. Credo che l'Italia dovrebbe cambiare urgentemente governo, perché quello che l'Economist ha scritto tanti anni fa, questo signore Berlusconi è unfit, no, è incapace di guidare il paese, l'ha detto lui, l'ha confermato lui, ha detto io faccio il Presidente del Consiglio a tempo perso, perché la maggior parte del suo tempo lui si occupa di donne, donnine, di prostitute, e di difendersi dalle notizie che escono da questo circo nell'opinione pubblica italiana. È questa l'Italia che quindi stai presentando ai telespettatori tedeschi? Ma per fortuna dell'Italia nel mondo succedono tante cose e non abbiamo sempre acceso i riflettori sull'Italia. E noi come cronisti che stimiamo anche questo paese cerchiamo naturalmente anche di mettere sotto la luce le cose positive, aziende che funzionano, iniziative che sono condivisibili, e se noi dovessimo solo parlare delle donnine del Presidente del Consiglio sarebbe veramente da espatriare anche per noi. Intanto in Italia la presidente degli industriali Marcegaglia continua a incalzare il governo e a criticare la manovra, e un monito arriva anche da Moody's. Parla di scenario italiano drammatico, di credibilità del paese minata. Chiede di fare presto la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, di mettere mano alle riforme a partire da pensioni e fisco. Occorre puntare alla crescita non con misure occasionali, spiega il leader degli industriali. Un grande disegno di riforme che parta dalle pensioni, una vera riforma fiscale che abbassi le tasse sui lavoratori e sulle imprese, le alzi sulle cose, sui patrimoni, noi su questo siamo disponibili. Un grande piano di privatizzazione, di liberalizzazione. Stiamo rischiando di buttare via gli sforzi fatti per decenni, dice ancora Emma Marcegaglia, che aggiunge: Confindustria non tollera più una situazione di stallo. Quello che noi diciamo è che ormai il tempo è scaduto, il paese ha bisogno di una forte discontinuità, ha bisogno di una strategia forte e vera per la crescita, altrimenti i problemi sono seri. Manovra economica intanto sotto la lente di ingrandimento di Moody's, l'agenzia di rating guarda gli effetti che il provvedimento da 54 miliardi di euro avrà sulla capacità di spesa di regioni, province e comuni. Le nuove misure di austerità, si legge nel report, riducono il budget degli enti locali e danno meno tempo per sistemare i bilanci. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Credit Suisse ha annunciato che verserà 150 milioni di euro per mettere fine a un contenzioso con la procura di Düsseldorf in Germania. Nel marzo 2010 gli inquirenti avevano avviato un'inchiesta per evasione fiscale che coinvolgeva i dipendenti di una filiale tedesca della banca svizzera sospettati di aver aiutato un migliaio di clienti a non pagare le tasse. Ieri in Francia, prima apparizione in TV per Dominique Strauss-Kahn, ma le sue dichiarazioni non convincono i francesi. 13 milioni e 446 mila telespettatori, 4 milioni in più del disastro nucleare di Fukushima, 200 mila in più rispetto al 7 novembre 2005, serata di audience record, quando il governo annuncia il coprifuoco per fermare la rivolta nelle periferie. La studiatissima intervista a Dominique Strauss-Kahn, la prima dell'ex direttore generale del Fondo Monetario sullo scandalo sessuale del Sofitel, ha regalato alla prima rete TF1 il primato storico degli ascolti di un telegiornale. Ma non ha convinto i francesi, che ancora non sanno cos'è successo esattamente nella suite dell'hotel di New York. Desca ha negato che ci sia stata violenza, ha parlato di relazione inappropriata, non a pagamento. Si è scusato parlando di colpa morale. La seconda, dopo il rapporto del 2008 con l'economista ungherese del fondo, Piroska Nagy, e se sbagliare è umano, pensano in molti, perseverare è diabolico o patologico. Imbarazzo in casa socialista, con la rivelazione di un patto di desistenza tra Strauss-Kahn e Martine Aubry per la corsa alle presidenziali, che indebolisce la posizione della segretaria del PS, già distaccata dal più popolare, François Hollande. Marco Mussonet, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. In chiusura lo sport con la pallavolo. Serbia campione d'Europa, Italia medaglia d'argento. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-1 nella finale di Vienna. Sentiamo il presidente della Federvolley, Carlo Magri, intervistato da Dario Ricci. Il primo scopo era andare a avere la carta per la qualificazione olimpica. Questo è un risultato ottenuto. Credo che chi ha visto la partita ha visto una grandissima Italia. Molto probabilmente oggi abbiamo forse fatto qualche errore, ma meritavamo di più, non siamo stati aiutati né dalla sorte né dall'arbitraggio, però contentiamoci di quello che abbiamo fatto. Si rivela vincente la scelta del nuovo corso all'insegna del nuovo coach Berruto? Sicuramente, valutando proprio il complesso della prestazione, ma si era già capito, no? Evidentemente si vede che c'è una mano molto interessante sulla gestione della nuova squadra, c'è un'area tutta nuova, peccato oggi non aver vinto, però sicuramente si è intravisto un potenziale enorme. Quanto vale questa medaglia per il movimento? Un movimento che forse per molti anni si è cullato nel ricordo dell'era Velasco, Bebeto. Quanto pesa questo nuovo argento? Ma secondo me sicuramente pesa, perché pesa tutto, però devo dire che il movimento, indipendentemente dai risultati, si è sempre non si è mai fermato. Eravamo forse abituati troppo bene. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.